reso molto più bello, lussuoso ed efficiente. Diciamo, questi giochi si perpetuano fino a vedere paradossi come il gioco della bottiglia in scatola oppure un 2-3 stelle in scatola. Com'è il gioco della bottiglia in scatola? Sì, e cosa ci metto nella scatola? Parlante. La bottiglia. Una bottiglia parlante che ruota e poi lei stessa dice quali sono le penitenze, le cose. Dire, fare, baciare, lettera, testamento. Esatto, però lì siamo un pochino una degenerazione. Senti, le penitenze finivano con lettera e testamento? Sì. Perché nella mia in Umbria c'era anche lettera, testamento, orologio. La penitenza orologio che ti davano un morso sul polso che sembrava l'orologio. Esiste nei tuoi manuali questa cosa? Se no te lo dico. No, mi manca, ma alla prossima edizione cercheremo. Lettera, testamento, orologio. L'orologio ti davano un morso sul polso e facevano l'orologio con il polso. Mi sembra interessante. Io la pratica l'ho vista fare, ma non all'interno di un dire, fare, baciare. Era sì, lettera, ve lo posso dire, in Umbria negli anni primi anni 60 era dire, fare, baciare, lettera, testamento, orologio. Dato un elemento in più. Prendo doverosamente appunti. Comunque il gioco da tavolo è molto vivo, non è stato ucciso dal videogame, così come il libro non è stato ucciso da cinema e fumetto e così via, e quindi queste cose si continuano a giocare. Magari quindi la scrittura non sarà uccisa dagli schermi alla fine? Io credo di no, ovviamente si scrive meno annualmente, però ho imbucato la mia ultima lettera ieri. Ancora capita ogni tanto di farlo. Si scrive meno manualmente, ma si scrive molto di più. Noi sappiamo tenere la penna in mano, scriviamo tutto a mano, ma nella mia vita, io prima della tesi laurea non ho scritto niente, qualche temino a scuola. Oggi un ragazzino ha scritto un poema in confronto all'età, diciamo, della fine della scuola. Perché? Perché si scrivono in altre maniere, altri modi. Grazie Andrea Angiolino, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato. Volevo solo pormi una domanda che ha avuto in parte le risposte, ma è un tema aperto su cui nessuno ha certezze: se nella nostra evoluzione, che oggi sembra che seguiamo in maniera del tutto cosciente, ci sarà una perdita dell'uso delle mani, saremo ridotti come i personaggi alieni dei film di fantascienza, che in realtà al posto delle mani hanno una sorta di tenaglia da aragosta o qualcosa del genere, o avremo le nostre mani ma con le dita lunghissime, sempre come gli alieni dei film di fantascienza, con i quali potremmo soltanto vellicare degli schermi o pigiare dei tasti. È una follia, lo so, ma ci sentiremo alla prossima più lucidi.